sono convocato anch'io, io vengo in ritiro per forza. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Occhio al corner con i 5 saltatori, Hamsik! Di Cresta! Di Cresta Hamsik! 1-0 Napoli sul primo palo! La carica dei 101 gol in azzurro! No, bella, è un grande risultato contro una grande squadra di prima fascia, allora siamo contenti di questo. Peccato per fine partita, abbiamo preso 2 gol, però è stata una grandissima partita. Siamo soddisfatti di questo e andiamo avanti così. Ci aspetta l'ultima partita prima della sosta e dobbiamo tirare meglio di noi. Parte Mertens con destro! 2-0 Napoli! L'ha messa lì, nell'angolo, dopo esserselo guadagnato questo calcio di punizione. Mertens trova il raddoppio, 2-0 Napoli. Stiamo giocando bene, secondo me la partita oggi solo il 2 gol che abbiamo preso, ma la partita che abbiamo giocato era molto bene. Stiamo giocando più insieme questo anno e dobbiamo giocare più e sì, questo anno si entra. Accompagna Isai, ancora Kajekon, dentro verso Bilic! E poi c'è il 4-0! E poi c'è il 4-0 in regolare, Mertens! Doppietta per lui! Un secondo tempo da sogno! 4-0 Napoli! Poker sotto il cielo del San Paolo! Non possiamo pensare già a maggio, dobbiamo pensare partita per partita. Oggi abbiamo vinto contro una grande squadra alla Champions, adesso domenica toccherà una partita molto difficile, una trasferta a Bergamo, quindi dobbiamo essere tranquilli, mantenere i piedi per terra, perché è appena l'inizio della nostra stagione e vogliamo fare un'andata molto, molto, molto positiva. Oggi giornata di grandi feste e celebrazioni per il Napoli. L'avete sentito, ieri ha dato lezioni di calcio al Benfica e a tutto il Portogallo, campione d'Europa. E io il Napoli credo, insomma, oramai sia già proiettato nel futuro. Anzi, lo dico e vi invito, tifosi napoletani, tra poco ne parliamo, è ora di mettersi alle spalle sta storia che Higuaín è andato alla Juventus. Questo Napoli, secondo me, è più forte del Napoli di Higuaín. Lo dico, 800-24-00-24, so che Franco Ordine non è d'accordo. No, non è che non sono d'accordo, dico che sei abbastanza... un nostalgico di Higuaín. No, non lo sono per niente, dico però che sei abbastanza spericolato. L'unica vera ricchezza del Napoli è il gioco creato su misura da Maurizio Sarri. Quello è il vero Higuaín del Napoli. Ma quello è il senso della mia provocazione. Inutile inseguire l'idea di un attaccante che non c'è più. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene, so che è pochissimi minuti, però ieri eri a San Paolo. Oggi abbiamo chiaramente uno speciale per celebrare gli 80 anni di Berlusconi con una serie di ospiti incredibili. Pensa che noi l'abbiamo qui il presidente. Ti vuole salutare. Buona giornata a tutti, un saluto particolare a un giornalista coeso, molto positivo e con un'ottima organizzazione del giuoco che risponde al nome di Franco Ordine. Grazie. Io, ma non stavo ringraziando naturalmente lei, Pardo, volevo semplicemente ringraziare Confindustria perché so che quest'oggi l'intera trasmissione, tutti convocati, verrà dedicata ai miei 80 anni e soprattutto non mi aspettavo che venissero soppresse le trasmissioni di Sebastiano Barisoni e di Giuseppe Cruciani a mio favore. Quindi, no, ma non è vero. Grazie Confindustria, questo è veramente un grandissimo regalo. Il Gabbiano va in onda regolarmente. No, anche Falco il Gabbiano. No, ma va tutto il Falco e Gabbiano, con tutto il rispetto per Enrico Ruggeri, sapete che lui è interista e quindi lasciamolo nel suo orticello. Adesso parliamo del Napoli, Pier. Parliamo del Napoli. Del Napoli anche perché io ho negli occhi veramente una serata meravigliosa, bellissima. Che non deve ovviamente illudere, perché il viaggio appunto è lungo, è complicato, perché il Benfica ieri secondo me ha sbagliato formazione, in qualche modo i cambi l'hanno dimostrato, però francamente francamente, insomma, mi sembra che questa sia una grande squadra. Non so dirti se è migliore di quella dell'anno scorso, sicuramente è più completa. Però il tema lo possiamo aprire, lo possiamo buttare lì. Apriamolo il tema. No, io trovo incredibile, io trovo che il vero miracolo di Sarri, al di là che il Napoli davanti gioca bene, è che siamo al 29 settembre, dopo un'estate che è stata quella che abbiamo raccontato ed è stata scioccante per i tifosi del Napoli, e il tema tecnico di Higuaín in un certo senso è come sparito. Questa è una squadra che segna più dell'anno scorso, segnano in tanti, ha esaltato nuove trame di gioco, forse vecchie, perché non è che Higuaín ha sempre fatto 36 gol. Questa è la differenza tra chi punta sull'abilità del singolo, del grande campione, del fuoriclasse assoluto, e chi invece punta sul gioco e soprattutto, diciamo, anche sulla capacità di redistribuire, quasi applicando una sorta di socialismo calcistico, responsabilità e compiti per ciascuno degli attaccanti. Io penso questo, che se non vinci lo scudetto nella stagione in cui il tuo bomber principale fa 36 gol, non lo vinci più per tutta la tua vita. Oppure può crearsi soltanto quella sorta di, come dire, di miracolo all'incontrario che solo il calcio può liberare. E cioè il fatto che non vinci con 36 gol del tuo bomber principale e magari vai a vincere distribuendo i 36 gol in giro per l'attacco. Devo dire che mi ha in qualche modo messo tranquillo il fatto che ieri per la prima volta abbiamo rivisto, perché pensavo di dover organizzare una trasmissione particolare di Chi l'ha visto, abbiamo rivisto Maksimović e il popolare Giaccherini. Mancano ancora Rogge e Diawara. Mancano ancora Rogge e Diawara. Adesso da qualche altra parte li ritroveremo. Ma magari uno specialino lo possiamo organizzare. Esatto, bravo. Pier, se vuoi chiudere sul Napoli, poi abbiamo il traffico. Facciamo qualche altro minuto perché credo che siamo riusciti a fare. Allora, facciamo così. Il tema l'abbiamo lanciato. Tra l'altro, se volete anche chiamarci, perché poi parleremo anche degli 80 anni di Silvio Berlusconi. Finiamo alle 3:30, dopo c'è il Falco e il Gabbiano, c'è Barisoni, c'è la Zanzara, c'è tutta la programmazione normale, presidente, è così, però non scriveteci, scriveteci 349-238-6666 oppure 800-24-0024, traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobo Vier. JP Morgan Asset Management vi presenta... Convocati. A livello emozionale la prima partita di Champions è stata questa, perché a Kiev c'era la sensazione di una partita bella, importante, ma il clima di stasera era qualcosa di diverso, e quindi a livello emozionale sicuramente l'impatto di stasera è stato molto più importante, molto più coinvolgente, molto più sentito, perlomeno da parte mia. E sbucare dal sottopassaggio in San Paolo così è tanta roba. Questo Sarri ieri sera, poi per carità, ci sono anche i dubbi, il Napoli non è la squadra più forte d'Europa, come scrive provocatoriamente un amico via WhatsApp, altri, ne parliamo quando arriveranno le partite tra pioggia, catenaccio e avversario altro gioco e nulla sarà perfetto come adesso, oppure il Napoli così già in forma può essere un problema nel prosieguo della stagione, questo l'ha scritto Luciano, c'è anche chi scrive che sotto l'aspetto realizzativo il Napoli è meglio del Barcellona e del Real se si togliessero Messi e Ronaldo, a Barcellona e Real Madrid. Questi paragoni mi sembrano un po' spericolati. Sì, molto spericolati. Però il paragone tra il Napoli che era e il Napoli che è, invece, secondo me è interessante. Abbiamo sentito prima anche Mertens dire ma giochiamo in maniera diversa davanti, abbiamo cambiato qualcosa. Intanto questa cosa noi l'avevamo detta, adesso non per fare i fenomeni, ma più volte, cioè che Higuaín sicuramente ha fatto il bene del Napoli l'anno scorso, ci mancherebbe altro, 36 gol, ma sicuramente anche il Napoli ha fatto il bene di Higuaín, questo non c'è dubbio. Cioè il Napoli è una squadra che ha sempre giocato un calcio offensivo con Sarri. E questo è indiscutibile, al di là del fatto che poi il finalizzatore fosse il massimo che c'è in Italia in questo momento, cioè il Di Pita. Però la mentalità è la stessa. Milik è entrato molto bene, anche se ieri forse ha giocato una delle partite più banali da quando da quando è al Napoli, gli esterni hanno qualità, i ricambi davanti sono molto buoni, il centrocampo è di livello altissimo, insomma una squadra molto completa. Credo che, come scrive giustamente Sconcerti oggi sul Corriere, poi il Napoli debba cominciare a vincere le partite più complicate, no? Le partite nelle quali fatica un po' di più, debba cominciare a vincere giocando male, se mi passi questa espressione, che è importante. Per, soprattutto in campionato, sì, a vincere le partite un po' sporche. A me sembra, esatto, a me sembra una squadra molto europea, però, cioè, ma una non è infatti, gioca bene a pallone. Infatti, se dovessi giurare oggi su che cosa può succedere per il Napoli di domani, dico che farà molta più strada in Champions League che in campionato, perché appunto questa è la caratteristica. Io non credo che il Napoli sia capace di vincere giocando male. È capace di solo di esprimere il suo gioco con una grande intensità, con una grande velocità. Ha un difetto clamoroso, che è quello, a un certo punto, appena le cose gli vanno per come l'acqua per l'orto, e cioè nel verso giusto, molla un po' di concentrazione, e appena molla un po' di concentrazione dietro sono di una fragilità inquietante. Sì, è successo anche ieri, e ieri se lo poteva permettere sul 4-0. Ci sono altri contesti in cui non se lo puoi permettere sempre in Italia. Mi fate chiedere, aspetta Pier, mi fai chiedere a un grande tifoso del Napoli, Maurizio De Giovanni, se è arrivato grande il momento di cancellare definitivamente la parola Higuaín. Soprattutto io chiedo a Maurizio De Giovanni come sta Arti. Come sta? Arti. Ecco, allora, Arti, come sta Arti? Sì, ecco, io devo essere preso in giro a livello nazionale, me sono detto. Buongiorno a tutti. Arti è il mio cane, è un caro amico, sa, di qualche vicissitudine di salute del mio cane, ma diciamo che la mia condizione di voce lascia comprendere, ma non c'è nessuna vicissitudine di salute. Arti sta benissimo, ma ha rischiato ieri nei festeggiamenti di essere buttato al secondo piano da uno slancio di euforia al quarto gol del Napoli. Sì, infatti io voglio dire che le fragilità difensive, i cali di concentrazione, tutto quello che volete, il Benfica non perdeva fuori casa da 9 mesi, veniva da uno score di 17 partite con risultati utili consecutivi fuori casa. È una squadra che prima di questa partita era sesta nel ranking europeo, la prima del girone, la prima fascia del girone, e ha giocato peraltro un primo tempo in cui ha sciorinato un gioco. Te le sei studiate tutte per rispondere a quelli che dicono che è stata una passeggiata contro una squadra. Francamente, venire a dire adesso che vedremo il Napoli quando avrà le partite difficili mi sembra francamente poco meno di una butata. Il Napoli ha giocato una partita difficilissima, non difficile. Era la prima in casa di moltissimi giocatori e dell'allenatore e del direttore sportivo a livello di Champions. Quindi era una partita che aveva delle complessità enormi, che il Napoli ha stritolato, che il Napoli ha letteralmente stritolato, con una prestazione, secondo me, ai livelli massimi. Ora, che questa prestazione sia difficilmente ripetibile, che questa si può discutere a lungo, ma che in questo momento il Napoli non sia la squadra che mostri a livello italiano sicuramente, a livello europeo molto probabilmente il miglior gioco, credo che stia veramente arrampicarsi sugli specchi. Ma i tifosi del Napoli possono svestire i panni a lutto per la partenza di Higuaín? L'abbiamo superata questa cosa. Ringraziando il cielo, il calcio non è una scienza esatta e il totale spesso è differente dalla somma delle parti. È ovvio che ieri in campo c'era il Napoli, almeno è stato per gran parte della partita, il Napoli dell'anno scorso, con in meno Higuaín e con al posto di Higuaín Milik, il quale, come diceva Pier giustamente, non ha certo fatto vedere la sua migliore partita da quando è qui. Ma il Napoli che abbiamo visto ieri difficilmente l'anno scorso si è visto. Quindi il carico del centravanti attuale della Juventus, che di cui non ricordo il nome e che non è allo stato, non posso non posso non passerà mai, Pierre, Franco, non passerà mai. Quello argentino, sì. Non mi ricordo. Comunque è stato opportunamente suddiviso. Sì, ma questa roba qui dovete smetterla, però, secondo me. No, guarda, non sono un giornalista, sono un tifoso, faccio il tifoso. Sì, ma io non mi rivolgo. Io non mi rivolgo, no, io non mi rivolgo, né al tifoso, né allo scrittore, né al napoletano verace, né al commissario di uno dei tanti strepitosi libri. Però io mi rivolgo invece all'uomo che ha un po' di un briciolo di buonsenso insieme con i resti del babà mangiato ieri sera. Ma non ce l'ha il buonsenso, ma non ce l'ha il buonsenso. Altrimenti non scriverebbe così bene. Sono felicemente privo del buon tempo. Altrimenti non scriverebbe le cose meravigliose che scrive. Su, sì, ha ragione. Quello che voglio, c'è una figura stupenda in un libro stupendo di Giovanni, che è quello seduto al bar che beve il caffè e sente questi disgraziati che parlano naturalmente di calcio, di Napoli, cioè. Ecco, quello lì è il Maurizio De Giovanni che mi piacerebbe sentire adesso. E invece, posso dire il pezzo, Maurizio, il pezzo più bello però del libro è il ritorno del padre ormai malato che scappa dall'ospedale accompagnato dal figlio, credo a Napoli Steaua, che se non sbaglio è una partita nella quale Cavani fa un gol di testa simile a quello di Hamsik. Vedi, non è un caso, io questo anche lo voglio dire, perché poi magari uno sembra scemo, giustamente. Il discorso è questo: Cavani è andato via in una determinata maniera. Lo nominiamo, lo ricordiamo, lo consideriamo in una determinata maniera, così la vita. Così molti altri campioni, purtroppo. È nel panto. Perché il Napoli, purtroppo, è ancora un transito per tra molti campioni. Terra di conquista. Esatto. Questo giocatore qui ha fatto una strada diversa, è andato via in maniera molto diversa. Non c'è acredine, ma francamente non è un bel ricordo, quindi è semplicemente un modo di non ricordarlo. Esorcizzarlo. Ci aiuta, ringraziando il cielo, ci aiutano gli altri, perché io non credo che con un cannibale così in mezzo, perché mostruosamente bravo, ma cannibale, quindi catalizzatore di tutte le azioni offensive del Napoli dell'anno scorso, quest'anno le azioni offensive del Napoli si sviluppano forzatamente per quell'assenza in maniera diversa. E allora tu vedi Caglion, Mertens, Insigne, Hamsik arrivare al tiro con una facilità e con una costanza ben diversa dall'anno scorso. Quindi io credo quando c'era lui, caro lei. Gli schemi oggi non arrivavano in orario quando c'era lui. Esatto. Quindi siamo testimoni di una diversa squadra che migliore, peggiore lo dirà il tempo. Noi ce lo teniamo stretto questo Napoli, lo guardiamo giocare con grande esaltazione. E così come sono d'accordo con chi diceva prima, giustamente, che io credo che molto abbia avuto e molto ha dato quel giocatore. Ma Sarri credo che abbia anche dato molto a quel giocatore, lo stiamo vedendo tutto sommato. Assolutamente. Ascoltate, abbiamo meno di un minuto, poi c'è la borsa, voglio essere particolarmente puntuale oggi. Fammi lanciare le 19 allora. Tu lancia e poi devo chiedere a Maurizio De Giovanni un'analisi da scrittore su un termine usato da Sarri. Dai Pier. No, perché stasera alle 19 su Italia 1 facciamo questa serata ovviamente dedicata a Berlusconi, ma nella quale c'è un traffico di palloni d'oro, allenatori da sogno. Io sono incredulo, quasi emozionato dalla quantità di ospiti che avremo in studio e collegati da Marco Van Basten a Fabio Capello a Carlo Ancelotti. Avremo anche ovviamente il punto di vista degli avversari con i saluti da parte della Juve, un'intervista a Moratti, perché poi chiaramente la figura di Berlusconi, lo sappiamo, è una figura divisiva anche nel calcio, no? C'è chi lo ha amato molto e c'è chi invece l'ha considerato come avversario, però insomma sarà un'occasione veramente per Sacchi, Baresi, Ambrosini, Albertini, insomma avremo di tutto di più. Per gli 80 anni di Berlusconi, per i quali siete convocati anche voi quest'ora. Beh, in quest'ora che rimane. Parleremo anche inevitabilmente del Napoli di ieri sera, che in questo momento, come si diceva prima, come principale individualità il gioco, come diceva gioca benino. Sacchi, ieri sera, in questo momento gioca benino. Ricorda veramente quella squadra lì, soprattutto per la mentalità europea di una squadra che gioca a pallone ed impone il proprio gioco, come direbbe Andro Mercu. In Italia, in Europa e nel mondo. E vi saluto. Ciao Pier, a domani. Ciao Pier. 30 secondi, Maurizio De Giovanni, il termine arrapato che ha usato Maurizio Sarri. Sì, no, io volevo a grande richiesta. Velocissimamente ricordare che molte case di napoletani sono conservate delle boccette in cui sì. Ci sono le lacrime di Berlusconi. Sì, erano le lacrime di Ramaccioni. Cerchiamo di essere precisi. 1990, io sono il felice possessore. Ma è un errore storico. Erano le lacrime di Ramaccioni. Silvano Ramaccioni. Anche, che piangeva più facilmente di Berlusconi. Dunque, no, il Napoli è orgasmico, evidentemente. Essendo orgasmico, è chiaro che tutti i paragoni vengono assimilati alla sfera sessuale. Se ci metti poi che giocavamo contro il Benfica, credo che questo possa essere in qualche modo esplicativo. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Grazie Maurizio De Giovanni. C'è la borsa 800 24 00 24. Borsa. Tutti convocati. Tra poco, nuove notizie. Pigia il coso rosso, grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Dal 1 ottobre su Radio 24, tutti i sabati alle 15. E quando vuoi, in podcast su radio24.it. Vorremmo fare una squadra che duri nel tempo, soprattutto una squadra che possa ritornare con stile, con classe, con cuore sulle scene nazionali e internazionali per ridare al Milan la sua tradizione e per dare ai tifosi rossoneri quello che il cuore dei tifosi rossoneri ha dato. And now the end is near, and so I face the final curtain. Fantastico gol! Stupenda! Prestazione del Milan con Marco Van Basten. Marco Van Basten segna il quarto gol per il Milan sullo Steaua. Van Basten, il no-cup, tutto un lampo di flash dalle tribune si portala a questo momento indimenticabile. Il Milan è campione d'Europa e ora Franco Baresi viene sollevato in trionfo dai suoi compagni. Una su tutte, ed è stata la prima volta che vinciamo la Coppa dei Campioni a Barcellona nell'89, mi sembra, contro la Steaua, e fu una serata magica. Intanto credo che mai si sia verificata una traslazione di tifosi dalla città della squadra ad un'altra città. Si calcolò che furono 80-90 mila. I did what I had to do. Una partita strana, vissuta nelle aule del Senato, con un occhio ai senatori e con un orecchio alle vicende della partita. I primi gol di Massaro, la prodezza straordinaria di Savicevic, che mi fu raccontata da un commesso della Camera. Lancio dritto per dritto, bello il colpo di testa da parte di Filippo Galli, Albertini, lancio a cercare Savicevic, in vantaggio Nadal, e Savicevic gli ruba la palla. E poi segna un gol incredibile, strepitoso, il gol di Savicevic, eccezionale prodezza, ci lascia veramente di stucco. Retropassaggio, palla nuovamente in movimento, ma a questo punto l'Udinese rinuncia ad attaccare e c'è Rossitto che effettua un retropassaggio per il lancio poi in avanti da parte di Bortolotto. E il Milan è campione d'Italia. In questo momento il signor Lucci ha decretato la fine del confronto e il Milan conquista il suo 14° scudetto e il terzo consecutivo. Sono trascorsi 93 anni dal primo titolo rossonero che risale al 1901. Vanno riconosciuti, riteniamo, a capello i meriti acquisiti nei 3 anni di gestione. La festa dello scudetto con il taglio della la torta, e non soltanto la torta per un successo, ma addirittura per due successi. E credo che averne celebrati così tanti, tutti di fila, possa far pensare agli altri che noi abbiamo fatto indigestione di torta e di successo. Ce l'abbiamo fatta. Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie che valgano a realizzare ciò che di buono, di forte, di vero c'è in noi, che abbiamo avuto questa avventura di intrecciare la nostra vita a un sogno che si chiama Milan. Beh, io credo che un po' di pelle d'oca sia necessaria, sia doverosa. Ce l'ha Franco Ordine, ce l'hanno tanti amici che ci stanno scrivendo, sono in macchina, sto piangendo come un bambino, forza Milan, che bello sentire tanti nomi di giocatori italiani in questi trionfi, ho la pelle d'oca, mi devo fermare. Immagino ce l'abbia anche Ariedo Braida, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie Ariedo. Un piacere. Ciao Ariedo. Un po' di pelle d'oca, sì. Certo, sicuramente sì. Io ricordo una cosa bellissima, più forte, dell'invidia, della sfortuna e dell'ingiustizia. Quella ha è detto, il dobbiamo famoso... Dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo. Quello è il famoso discorso fatto a Vienna, quello della più forte dell'ingiustizia. Sì. No, la prima volta, per la verità, a Pomerio, la convention che abbiamo fatto, la prima convention a Pomerio, proprio agli inizi di questa grandissima, bellissima avventura. Ecco, questo posso dire che è stata una cavalcata fantastica. Poi il presidente è veramente ormai, dire che cosa si può dire? Si può dire che il Milan è stato grande. Adesso mi trovo in una città, Barcellona, che è veramente fantastico. Ecco, ogni tanto dico, il Milan era come il grande Barcellona. Questo è. Barcellona per i milanisti è una città santa, perché allora, ce lo stanno scrivendo, tanti, il loro Milan sono le Ramblas a Barcellona. Eh sì, è una città santa, sì, perché ha segnato il primo appuntamento con la Coppa dei Campioni, ha segnato il secondo appuntamento, quello della Supercoppa d'Europa, con il Barcellona dell'epoca, gol di Evani sia nella partita di ritorno a San Siro, e in qualche modo è stato la città elettiva, perché a Barcellona con l'idolo allenatore e con il presidente Berlusconi appena arrivato al Milan, ci fu la partecipazione al famoso trofeo Gamper con il PSV Eindhoven, durante la quale partecipazione il Milan scoprì il talento incredibile di Ruud Gullit. E forse Ariedo Braida ne sa qualcosa. Certo, Ariedo Braida sa più di Van Basten. Perché Ariedo Braida lui non lo racconterà mai. Vi racconto questo particolare inedito. Diciamo così, se è vero Ariedo Braida sta zitto, altrimenti smentisce. Allora, Van Basten conosce la storia. Esatto, Van Basten viene fermato per una cifra di 100 milioni dalla Fiorentina di Nassi e Agroppi. La Fiorentina cambia presidente, diventa per Cesare Baretti, e rinuncia a questa opzione. A quel punto si inserisce Ariedo Braida, convoca a Milano Apollonius e porta Marco Van Basten a Milano. Nei primi tempi Van Basten aveva problemi alla caviglia, e allora la Juventus invece aveva comprato Jan Rasch. Bene, i primi tempi, una sera il presidente chiamò Braida e gli disse: ma siamo sicuri che non è meglio Rasch di Van Basten? No, di Van Basten. E Ariedo Braida disse: presidente, stia tranquillo, vedrà come va a finire. Confermiamo? Sì, confermiamo. Ragione, Franco ha vissuto con noi tantissimi, quasi tutti questi 30 anni. Li ha vissuti sempre a fianco del Milan, al fianco di Adriano Galliani, esatto, diciamo, e tra virgolette anche con me, così, e quindi Franco conosceva ha vissuto la storia del Milan, quindi Franco è al corrente, è stato al corrente di tutto, ecco, diciamo, e quindi Ariedo, conosce benissimo tutto. Qual è il momento in cui è nato davvero il Milan di Berlusconi, o almeno si è mostrato? Io, da osservatore esterno, ero un ragazzino appassionato di calcio, poi insomma, io ho in mente la notte di Madrid, quando per la prima volta una squadra italiana va e gioca a Madrid da grandissima squadra. Però magari voi che siete stati dentro, c'è un altro momento dove avete capito che non erano solo delle visioni, ma era qualcosa che si poteva costruire? Per me è stato a Pomerio, quando il presidente è appena arrivato, ha detto, eravamo tutti nuovi, anch'io ero appena arrivato, e ha detto più forti, dobbiamo diventare la squadra più forte del mondo. E poi siamo partiti e diciamo che abbiamo girato per tutta l'Europa, per mezzo mondo, alla ricerca dei campioni di quel tempo, e che tra virgolette siamo riusciti a portare quasi tutti i più grandi campioni al Milan. Qua dico quasi, perché portarli tutti è impossibile. Qual è quello che è sfuggito? Sfugge sempre qualcosa, anche se sì, sai com'è, il calcio purtroppo non è perfetto e noi siamo tutti imperfetti. Però devo dire che il lavoro che è stato fatto veramente grande, veramente eccezionale. Adesso sprecare da tutti i tre olandesi, e poi la grande difesa del Milan, cioè del Milan con gli italiani, con Baresi, Maldini, Tassotti, Costa Curta, Galli, poi Donadoni, piano, tutti gli racconto altri. Un paio di aneddoti, tu devi fare il notaio, se confermare o smentire. Allora, usiamo lo stesso sistema di prima. Aneddoto è su George Weah. Ariedo Braida è quello che spinge in maniera forte e decisa e convinta per andare a prendere dal Paris Saint-Germain George Weah e portarlo a Milano. Arriva George Weah a Milano e va a Milanello, e Fabio Capello lo vede camminare per i corridoi di Milanello e a un certo punto chiede a Braida: ma chi mi avete portato? Un cameriere, perché camminava in un modo molto strano. Quel cameriere fu decisivo. Ha vinto il pallone d'oro. Non soltanto il pallone d'oro, ma fu decisivo per la famosa rimonta, la cavalcata dello scudetto del 99 con Zaccheroni. Racconto il secondo. Due gol a Torino contro la Juve. Esatto. Racconto il secondo episodio, e cioè Ariedo Braida si innamora, andando in giro per l'Europa, si innamora di Andriy Shevchenko, convince Adriano, che oggi compie 40 anni, che oggi compie 40 anni, sì, perché è un gemello del presidente. Gli ho fatto gli auguri, per la verità, gli ho mandato gli auguri. Anche io glielo ho mandati, mi è appena arrivata la sua risposta cortese. Cosa succede? Che naturalmente la pratica viene affidata alle mani esperte di Adriano Galliani, che va in Ucraina e firma un accordo con la valutazione del dollaro fermata a quel giorno in cui si firma l'accordo. Nei mesi successivi il dollaro scende giù in picchiata e il Milan, alla fine di quel periodo, risparmia un bel po' di milioni nel pagamento di Andriy Shevchenko. Noi possiamo mettere il bollo, Ariedo. Aggiungiamo una piccola cosa, ma simpatica. Io con Adriano ho un rapporto di amicizia veramente grande, proprio direi fraterno. E con lui non siamo mai, tranne una volta, andati a vedere giocatori che avevamo in mente di prendere, di acquisire. E invece con Shevchenko siamo andati insieme, con lui, io e suo figlio. Siamo andati a vedere una partita di Champions, no? La partita è finita 0-0 e giocava la Dinamo contro il Panathinaikos. Faceva molto freddo e Shevchenko non toccò palla, oppure non, sai, quelle partite dove un calciatore fa veramente poco, e lui ha fatto veramente poco. Adriano mi dice: ma sei sicuro? Ma sei matto? Mi dice. Matto. Costa. E io ho detto: Adriano, l'ho già visto. E sradica il terreno quando parte, gli ho detto. Quindi, guarda, i giocatori giocano bene e giocano male. Ecco, ma con lui, Adriano ed io siamo andati solo quella volta, l'unica volta a vedere una partita insieme. Solo una. Alla fine è andata bene. 27 anni che sono rimasto al Milan. Alla fine è andata bene. Sì. Abbiamo preso Seva, che è il secondo marcatore della storia del Milan. Sì, quindi, sì, dopo Nordahl. Secondo dopo Nordahl. Mm. Sì, quindi, sì. E io credo che se potesse tornare indietro resterebbe lì per battere il record di Nordahl. Però adesso abbiamo il traffico. Esatto. Devo salutare e ringraziare particolarmente Ariedo Braida. Per aver risposto al nostro invito, grazie Ariedo. Ciao a tutti e ciao Franco. Ciao Ariedo. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Non si fa fatica, ragazzi. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Convocati. I tifosi sono malefici, Intanto saluto Giovanni Galli. Ciao Giovanni. Sì, ciao, buon pomeriggio. E ti chiedo scusa per l'attesa. No, volevo dire, i tifosi sono malefici. Ariedo Braida racconta che solo una volta è andato a vedere un giocatore con Galliani e scrivono, in sostanza Galliani non aveva capito nulla di calcio. Ciao Giovanni. Ci racconti Giovanni, c'è qui Franco Ordine, l'aneddoto, la cosa che ti resta più in mente dei tuoi anni di convivenza con Silvio Berlusconi? Beh, sono stati quattro anni intensi, diciamo che l'arrivo al Milan per me fu abbastanza traumatico, perché comunque arrivavo da una realtà familiare come era la Fiorentina, in una azienda dove niente era lasciato al caso. E ricordo appunto la presentazione, quella degli elicotteri, insomma lì ci rendemmo conto, guardandoci in faccia, che forse eravamo entrati in un pianeta nostra diverso da quello che era il calcio per tutti noi fino a quel momento. E devo dirti, cioè, il primo giorno lui ci convocò, lui fece una campagna acquisti d'estate, arrivammo io con Calderisi, Bonetti, Massaro, Donadoni, e lui ci convocò ad Arcore tutti e cinque in compagnia delle mogli e chi delle compagne. Ecco, di tutte le mogli c'era soltanto la mia, che insomma giovanissima fra le altre cose, e quando arrivammo ad Arcore si rivolse a mia moglie e disse: lei si sieda alla mia destra. Se la mise lì vicino, e mia moglie in grande imbarazzo, insomma, perché comunque Berlusconi già in quel momento era in grande auge per il discorso televisivo, grande imprenditore e tutto, per cui fu un momento, no, di grande imbarazzo per mia moglie. Però poi dopo così lui, grande uomo di comunicazione, riuscì a metterci tutti a nostro agio, facendoci però capire che cosa voleva già dal primo incontro, che cosa avrebbe voluto da tutti noi e dal Milan. Sì, qual era la mission? Poi, per carità, ci sono anche le sconfitte, tante, ci sono anche tifosi simpatici, un tifoso dell'Hellas Verona che fa i complimenti a Berlusconi, ma gli ricorda che c'è l'Hellas, c'è la famosa monetina di Alemão che fece imbestialire Franco il Milan. Sì, non solo che fece imbestialire il Milan, ma ricordo un episodio stupendo, straordinario, che è il seguente. Nei giorni che seguirono l'episodio della monetina a Bergamo, quando ci fu tutta la famosa sceneggiata tra Carmando e Alemão, il presidente Berlusconi, che stava studiando insieme con gli avvocati il ricorso da fare alla disciplinare per il famoso 0-2 ottenuto dal Napoli, aperta e chiusa parentesi, da quell'anno in poi cambiarono la norma, a un certo punto, per avere cognizione di quello che aveva subito Alemão, chiese ai suoi domestici di andare al piano più alto della villa di Arcore e di lanciargli le monetine per vedere l'effetto che faceva. Hai capito? Stupendo. La sapevi, Giovanni? No, ma Franco è un pozzo di aneddoti straordinario. A proposito di tua moglie, ricordo ancora questa che mi è rimasta impressa. Siamo sull'aereo di ritorno da Tokyo dopo la prima Coppa Intercontinentale e lei mi dice: qui sembra che hanno giocato una partita incredibile, nessuno si rende conto che qui stiamo entrando nella storia. Hai capito, insomma. Vi devo fermare perché c'è il GR. Ringrazio Giovanni Galli. Grazie Giovanni, un abbraccio. Ciao, grazie a voi. Alla prossima. Ringrazio anche Franco Ordine che tornerà sicuramente a, vi saluto a farci con visita. Grande piacere. GR, torniamo 800 24 00 24. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi programma radiofonico. Scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. Tutti convocati. Domani abbiamo una tappa importante per l'Europa. Abbiamo fatto tanto per conquistare questa occasione e non la vogliamo sciupare. Poi penseremo al Milan sapendo che torneremo la notte tardi, che sarà una partita non facile, però con la possibilità di rimettere dentro almeno 3 giocatori che abbiamo non sono inseriti nella lista UEFA, per poter così dare una mano a questi ai pochi giocatori che ho. Ho molto fiducia in la giocatori che possono giocare in Europa. Che possono giocare in Europa. Questi ultimi anni ha l'esperienza d'Europa, la grande maggioranza dei giocatori sono internazionali, di Azerbaijan, gli altri sono anche nell'esperienza internazionale a livello di Lega Europa. Chi noi conosciamo, noi italiani qua, che conosciamo bene perché 2 anni fa ci hanno fatto vedere i come. Dobbiamo fare risultati perché siamo la Roma e dobbiamo essere più attenti per quello che deve essere il nostro lavoro. Giochini che portano agli andazzi, basta. Giocate che danno poi senso a quello che è la qualità del gioco della squadra della Roma, quante ne vogliamo. Stasera ore 19 Fiorentina Karabakh e Sparta Praga Inter, ore 21.05 Genk Sassuolo e Roma Astra Giurgiu. La seconda giornata del girone di Europa League. Saluto Riccardo Trevisani, collega di Sky. Ciao Riccardo. Buon pomeriggio a tutti. Senti un po', che notizia può venire fuori da questa giornata di Europa League? Qual è il tema secondo te di cui domani magari potremmo parlare, nel bene o nel male? Onestamente non mi meraviglierebbe un'altra vittoria del Sassuolo, quindi mi concentrerei sulle altre 3 che per motivi diversi fanno comunque fatica. La Roma, che è in un momento di grande difficoltà, avendo perso 2 delle ultime 3 in campionato, avendo pareggiato con Vittoria Pölsen, avendo avuto la polemica al compleanno di Totti e tutto il caos che ne è seguito, credo che debba dare una risposta. È vero che l'avversario, la Stragiurgiu, non è neanche una squadra così forte, ma è vero pure che la Roma sa perfettamente battersi da sola quando è in difficoltà e lo ha fatto più volte in questi ultimi anni. Quindi la risposta della Roma, ma anche la risposta dell'Inter, che contro lo Sparta onestamente non può più sbagliare, perché il Jolly si era già giocato la prima di Europa League. Sì, è diventata improvvisamente una partita da vincere. Ieri De Boer ha detto che vuole vincere l'Europa League. Ora, considerato tutto, e nel tutto ci mettiamo anche le regole del fair play che hanno obbligato l'Inter a tenere fuori quasi tutti i nuovi acquisti della lista per l'Europa League, io non so se si tratti di un messaggio interno o se realmente l'Inter abbia la squadra per arrivare in fondo. Non so, allora, cosa pensi tu. Credo che la squadra sia forte comunque, anche senza i giocatori che mancano su tutti, direi João Mario. Però rispetto alle altre squadre la vedo più proiettata ad arrivare terza per tornare in Champions League piuttosto che a vincere l'Europa League, nel senso che vincere una competizione è una cosa che si fa alla fine di un percorso di crescita. Ricordiamoci che l'Inter, dopo 3 settimane di De Boer, aveva pareggiato col Palermo, perso col Chievo e perso contro la Hapoel Beersheba in Coppa. Non è una squadra ancora così solida e così forte da poter affrontare un percorso complesso come quello delle coppe per poterlo vincere. Viceversa, piano piano, a colpi di Icardi, di bel gioco, di coesione, di gruppo, e con la rosa al completo, quindi comprendendo anche soprattutto João Mário, ripeto, può pensare di provare a strappare il terzo posto alla Roma. Per gli altri due, francamente, io vedo Juve e Napoli di un altro pianeta. Sì. Dopodiché va anche detto, e lo diciamo adesso che fine settembre, che l'Inter deve tassativamente fare un'ottima Europa League, perché poi magari arrivi terzo e nella situazione in cui è oggi l'Inter a livello di ranking UEFA finisci tra le non teste di serie nel preliminare e non sai che cosa ti può capitare. Ma questo è il monito per i tifosi che magari dicono chi se ne frega, terzo posto, il campionato, ma l'unico paese si può fare una scelta. A dire chi se ne frega dell'Europa League, l'unico paese rimasto indietro su tutti i punti di vista, anche quello di pensare che la Coppa sia una manifestazione stupido, poco importante, quando guardiamo squadre come l'Atletico Madrid che tra l'Europa League hanno cominciato a diventare delle straordinarie squadre di calcio capaci poi di battere il Bayern Monaco. Stasera Totti gioca a titolare, altro tema curioso. Vorrei vederlo prima di certificarlo, perché non era stato neanche particolarmente bene, è stata la settimana della festa, però certamente ci può stare che vada in campo e che di fatto Spalletti riproponga la squadra che ha giocato contro il Crotone come atteggiamento, cioè con le quattro punte. Credo che la Stragiurgio sia meglio del Crotone, però il rischio se lo prende Spalletti, nonostante abbia già visto che la sua Roma comunque difensivamente balla e balla tantissimo. Ora lo fa con un esterno solo, cioè Bruno Perez, e non Bruno Perez e Florenzi, con Strotola nel parete in mezzo, e poi vedremo davanti come si sistemerà. Le opzioni Spalletti ne ha tante. La cosa che spaventa è la fragilità difensiva, perché Roma non solo ha preso molti gol in questa via di stagione, 14 sono perso il conto comprendendo anche le coppe, ma soprattutto ha subito tante tante opportunità. Il fatto che Szczęsny sia stato il migliore in campo in una partita persa 3-1 contro il Torino la dice lunga su quanto la Roma balli difensivamente. Sì, ha bisogno sicuramente di trovare degli equilibri. Per chiudere, credo che qualche equilibrio lo debba trovare anche la Fiorentina. Io francamente non ho ancora capito quale sia la sua dimensione quest'anno. Mi sembra una dimensione da bene che va a sesto posto. Sesto perché posto. Non c'è più l'entusiasmo della passata stagione. Io credo che a gennaio qualcosa con Paolo Sousa, la società e i giocatori si sia un pochino inceppato. Se pensiamo anche al tipo di gioco espresso, l'anno scorso era una Fiorentina che in pochi conoscevano e che dava spettacolo in campo. Penso soprattutto alla vittoria 4-1 sul campo di un Inter che ha vinto tutte le partite fino a quel momento. Mi ritrovo a vedere una Fiorentina noiosa, una Fiorentina abbastanza prevedibile, una Fiorentina soprattutto poco entusiasta in campo, pochi sorrisi, poche belle giocate. Una squadra che ha fatto 0-0 a Salonicco, 0-0 col Milan, senza il gol irregolare di Badel, 0-0 con la Roma, 1-0 calcio d'angolo contro il Chievo. È una squadra che tende allo 0-0, e tendere allo 0-0 vuol dire che hai una buona fase difensiva, ma che davanti crei veramente pochissimo. E avendo attaccanti non da 20 gol, perché non lo sono Kalinic e non lo è Babacar, alla fine è una squadra che farà sempre tanta fatica a segnare, e sempre gli altri a zero non ce li puoi tenere. Io credo che Juventus, Napoli, Roma, Inter e Milan arriveranno davanti alla Fiorentina. Riccardo, sei 2 minuti di pazienza, ascoltiamo insieme Fabio da Napoli e Marco da Bologna. Volentieri. 800 24 00 24. Fabio. Allora, buonasera a tutti e a tutti gli amici di Radio 24. Io volevo far notare, sempre riguardo alla questione di Napoli e Higuain, che è vero che Napoli ha perso un grande attaccante che comunque ci ha regalato un record, quello di 36 gol, che comunque porta la squadra e lui stesso, diciamo, negli annali. Però è anche vero che De Laurentiis ha fatto una grandissima operazione di mercato nel vendere il giocatore e regalare finalmente alla città una seconda e una terza squadra, che finalmente noi possiamo con tranquillità dire che abbiamo giocatori all'altezza, anche quando parliamo di riserve. Sì, se giocano, perché ieri abbiamo visto i primi minuti di Maximovic e di Giaccherini, mentre Rogge e Diawara ancora non ne hanno fatti, Riccardo. Io dico che andrebbero fatti giocare, ma credo anche che Sarri sia molto restito al turnover, e da un certo punto di vista questa cosa mi piace molto, perché io credo nelle squadre che giocano sempre con 7-8 giocatori e ne cambiano 3, non quelle che ne tengono 3 e ne cambiano 7-8. Quindi sono convinto, e forse ne parlammo anche qualche settimana fa, del valore del Napoli. Per me Napoli ha fatto un'operazione straordinaria, ha preso dei soldi, ha avuto un giocatore di 29 anni, ha arricchito la rosa e si sta futuribilizzando, se mi consentite questo termine che non esiste, però si sta proiettando verso un grande futuro, per me decisivo Sarri in tutto questo, ma comunque sta proiettando nel far comparire il Napoli a tutti i livelli, difensivo, centrocampo e attacco, con tanti uomini forti. Detto questo, devi poi riuscire a tenere l'attenzione alta, gli schemi e tutto quanto una stagione intera, e questo non è mai facile. Sì, rispondo a Franklin che ha scritto 349-238-6666, ha capito che gioca Joao Mario. No, stasera non gioca Joao Mario, primo perché è infortunato, secondo perché non è nemmeno nella lista dell'Europa League. Quindi Joao Mario proprio questa sera non può giocare, non potrebbe giocare in nessun caso. Non potrà giocare fino a febbraio. E non potrà giocare in Europa League forse fino a febbraio. Vediamo se poi a gennaio possono e vogliono inserirlo. Marco da Bologna, Marco. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Da Juventino vorrei fare i complimenti al Napoli, anche perché è stato motivo d'orgoglio. E almeno fino alle semifinali gli faccio un grande in bocca al lupo. Anche perché ha parzialmente vendicato la nostra Roma comunque, ed avendo tanti amici all'estero vedo che troppo spesso il calcio italiano viene sottovalutato ultimamente. E in ultima analisi vorrei fare un appunto sulla meravigliosa storia del Milan. Ma cosa accadde quella maledetta notte di Marsiglia quando Galliani decise sciaguratamente di ritirare la squadra? Cosa accadde? Arrivederci. Insomma, noi sappiamo la versione di Galliani, che si è sempre assunto la piena paternità di quella scelta, Riccardo. Non ce ne sono altre di versioni da poter tirare fuori. Certamente in un trentennio meraviglioso abbiamo visto un Milan andare bene, benissimo, veramente, veramente super bene. Però abbiamo ogni tanto qualche caduta in 30 anni, gliela si può anche concedere. C'è stato qualcosa di sbagliato da quella sera di Marsiglia a questi ultimi anni con i cambi d'allenatore. Mentre venivo a chiudermi qui in sala per parlare con voi, pensavo: oggi è giovedì, c'è l'Europa League e questo grande compleanno di Silvio Berlusconi. Il Milan non solo non è in Champions, ma non è neanche in Europa League, perché sull'isterismo di questi ultimi anni ha pensato bene di cacciare via Mihajlovic quando in Europa League ci stava e alla fine in Europa League ci sta il Sassuolo. Anche se Riccardo, io ho un'opinione diversa sul finale della passata stagione, cioè tutti omettiamo di ricordare che il Sassuolo ha vinto le ultime quattro partite e forse è andato a un ritmo che comunque non avrebbe sostenuto il Milan. Cioè, io sono dell'opinione che non l'ha persa il Milan la qualificazione, ma l'ha guadagnata il Sassuolo. Però non insomma, lo possiamo sapere, stiamo facendo discorsi di pura teoria. Diciamo che numericamente come non c'era visibilità per i riflettori a Marsiglia, non c'è la matematica certezza di avere un Milan con la stessa media punti di Mihajlovic anche con Brozzi. Cioè, nel senso, l'abbiamo visto che non era così, non abbiamo la certezza che Mihajlovic avrebbe ottenuto la stessa media precedente, però il Milan che cambia nuovamente allenatore per la quarta volta in due anni, durante la stagione, a 4-5 giornate dalla fine, sì, è simbolo di grande confusione. Hai capito? E questo dico, e oggi che c'è il compleanno con le coppe in campo, il Milan che è stato re delle coppe europee e veramente, diceva prima l'ascoltatore, il calcio italiano ha bisogno di dominare in Europa, e se c'è una squadra che l'ha fatto più di tutte le altre, questa è il Milan, non vederlo neanche in Europa e ripensare quello che c'è alla fine dell'anno scorso, un po' di tristezza la mette. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Trevisani, questa sera impegnato nella lunga maratona di Sky per l'Europa League. Un amico scrive: lo sapete che gioca la Fiorentina, ne abbiamo parlato due minuti fa della Fiorentina. Saluto Ciccio Colonnese, ciao Ciccio. Buongiorno a voi. Buongiorno a te. Ti giro un altro messaggio che è arrivato, firmato Alberto. Spalletti fa giocare Totti questa sera per avere la scusa per toglierselo dalle scatole domenica. Non lo so io, come la vedi tu? È curioso però, insomma, che al culmine di queste giornate un po' isteriche a Roma, Totti questa sera come sembra sia titolare nella Roma? È una domanda o un'affermazione? Ah, non lo so, dimmi tu. No, ma non vediamo sempre male, dai. Totti in questo momento merita di giocare, è un calciatore che ha dimostrato quando è entrato di essere l'arma in più della Roma, e io penso che Spalletti con molta onestà abbia scelto lui. Non può pensare la Roma di che debba giocare sempre di stesso. Tra l'altro non sta avendo un risultato eccezionale da chi sta giocando sempre, quindi è giusto che dia spazio anche a giocatori che quando sono subentrati dal nome non di poco come Totti, che abbia la sua chance per fare la sua partita. Ma secondo te perché la Roma non ha ripreso il discorso da dove lo aveva lasciato a maggio? Era una squadra solida, continua, trovava i risultati, calcio, aveva un gioco. Perché nel calcio molte volte, insomma, le stagioni non sono sempre le stesse. L'anno scorso la Roma con Spalletti aveva avuto una stagione perfetta, quando era arrivato Spalletti vinceva sempre, e quest'anno non è così, nel senso che è partita male. L'eliminazione della Champions League è stata una botta devastante, perché la Roma pensava, dopo aver visto il sorteggio, forse pensava, che era illusa la superficialità di tutti, dell'opinione pubblica, degli addetti ai lavori, pensando di incontriamo il Porto che è una partita abbordabile, invece è stata una mazzata pesante, e adesso per mettere a posto i cocci dell'eliminazione della Champions ci vuole tempo, e la Roma sta soffrendo, secondo me, anche questo aspetto. E in più, da non dimenticare che la Roma ha perso rispetto all'anno scorso un giocatore fondamentale in mezzo al campo come Pjanic, e in difesa non si è rinforzata perché onestamente non ha comprato nessun giocatore di valore. Sì, anzi, al momento non ha Rudiger, che è stato un giocatore forse sottovalutato a lungo l'anno scorso. Sì, credo anche, Ciccio, che Spalletti abbia cambiato qualcosa. Cioè, ad esempio, l'anno scorso giocava col falso 9, quest'anno gioca con Dzeko. Evidentemente non ha ancora trovato l'amalgama giusto. L'anno scorso qualsiasi cosa faceva Spalletti gli andava bene, il calcio è questo, insomma, giocava col falso 9, qualche volta ha giocato con Dzeko e Dzeko riusciva a far bene, e quest'anno ha voluto forse riproporre Dzeko e non sta avendo la stessa armonia di gioco di squadra che aveva l'anno scorso. Il calcio non è sempre lo stesso, ripeto, le stagioni cambiano, e quindi quest'anno la Roma sta avendo delle grosse difficoltà, in più alla pressione di una piazza come Roma che non ti aiuta, perché dopo l'eliminazione della Champions sicuramente la pressione più alta per una squadra che ripeto aveva le aspettative di poter fare la Champions League, adesso non fa. Sì, sono sempre passaggi difficili da governare. Grazie Francesco. Grazie a voi, buona giornata. Grazie Francesco Colonnese. Abbiamo ancora qualche minuto. Matteo dalla provincia di Venezia. Sì, buongiorno. Volevo chiedere, secondo voi il Napoli con la partenza di Higuain non potrebbe subire la svolta che ha visto l'Inter nel 2010 con la partenza di Ibrahimovic? Nel senso, dal punto di vista della credibilità, del gioco? Perdonami Matteo, ho perso il senso della domanda, se puoi ripeterla. Sì, la partenza di Higuain. Sì. Se poteva rappresentare la svolta come per l'Inter del 2010 dopo la partenza di Ibrahimovic. No, ma io non credo che sia il parallelo giusto, però credo che la partenza di Higuain, ma lo diciamo da quest'estate e almeno fin qui il primo mese di stagione ci ha dato ragione, io credo che la partenza di Higuain in qualche modo abbia restituito il Napoli alla sua completezza di schemi, e lo stiamo vedendo in campo, hanno ricominciato a segnare gli altri. Higuain, giocatore straordinario, ma che spesso ha fagocitato anche chi gli ha giocato accanto nel reparto. Anche Allegri ci sta mettendo qualche settimana a mettere insieme Dybala, Higuain e un po' tutto il costrutto dell'attacco della Juventus. Giovanni, dalla provincia di Vicenza. Sì, buongiorno. Volevo sapere, secondo voi, se il calcio moderno è cambiato talmente tanto da non poter permettere una continuità di vittorie in Europa per una squadra italiana come quella di Milan? Io credo che non sia un problema del calcio moderno di come è cambiato, il problema è che ci siamo impoveriti noi, Giovanni, e oggi non c'è una squadra italiana che sia dominante come quel Milan, anzi credo non ci sia nemmeno a livello europeo, perché a livello europeo ci sono 3-4 squadre che hanno quel profilo lì, e non è un caso che poi si alternano in presenza nelle finali di Champions, nelle vittorie, una è il Real Madrid, c'è il Barcellona, c'è il Bayern di Monaco. Ma noi italiani siamo lontani, ci sta provando la Juve, ma siamo ancora lontani. Parliamo di basket, che domenica inizia il campionato. Saluto Attilio Caia, ciao Attilio. Buongiorno a tutti. Ciao, buon pomeriggio. Abbiamo visto domenica il primo trofeo della stagione andare a Milano, il sospetto è che questa sia, almeno in Italia, tutta una stagione costruita per Milano, troppo forte. Beh, Milano ha fatto una squadra non solo per il campionato, ma anche per ben figurare in Eurolega, e quindi per figurare in Eurolega devi fare investimenti importanti, sono stati fatti, è stata costruita una squadra completa in ogni reparto e anche con molte variabili in ogni reparto, perché se si pensa che deve fare due campionati, una stagione di 30 partite in Serie A e 30 partite in Eurolega, addirittura in Eurolega ci sono settimane in cui saranno il doppio turno, quindi dovrà giocare a Milano 4 partite in una settimana. Questa è la ragione per cui ha fatto una squadra molto lunga e anche secondo me molto ben fatta e molto competitiva. Sì, tanti soldi spesi, la sensazione è che si siano evitati errori del passato. Sì, perché sono state fatte, sono partiti da un lungo di alto livello, Radulica è un lungo che a livello europeo ha dimostrato soprattutto con la nazionale serba di essere un giocatore quasi dominante, perché ha grandi qualità tecniche, però per il salto di qualità di un lungo sa passare la palla molto bene, e poi ha giocatori importanti in ogni reparto, del playmaker da Hickman a Calnietis e Cinciarini, che si è visto in Supercoppa attraversare un ottimo momento di forma, forse anche molto motivato dalla fiducia che gli è stata data con la fascia di capitano, al reparto esterni dove Simon e Gentile per a livello italiano sono veramente fuori categoria. Sì, dietro Milano chi mettiamo? Ad esempio tra Sassari, Reggio Emilia, Avellino, Venezia, proviamo a metterlo in fila. Beh, insomma, direi che una per un motivo, una per l'altro, hanno diverse cose positive, cominciando da Reggio Emilia, che ha il nucleo di italiani, lo zoccolo duro molto importante, l'allenatore che sta lavorando su di loro da diversi anni a questa parte. Hanno un po' cambiato filosofia rispetto al passato, dove il passato si appoggiavano su stranieri con un grande passato, con grandi risultati, con un grande curriculum. Quest'anno invece gli italiani sono pronti, come dicono loro, di andare con le proprie gambe, e hanno dimostrato in Supercoppa di essere in campo molto bene. Il problema è di vedere quanto possa dare il valore aggiunto agli stranieri. Per quanto riguarda Avellino, ha confermato le grandi capacità di Alderani sul mercato, perché ha inserito stranieri estremamente importanti, secondo me alcuni saranno anche le rivelazioni del campionato. Venezia ha aggiunto al nucleo di importante l'anno scorso, da Bramos a Peric a Orten a Regime, giocatore un asse play pivot, dove Ains dopo il campionato di Sassari non ottimale, ma è quello di Siena che ha fatto una finale scudetto, ha un lungo estremamente interessante come Huggins, e poi, come dicevi tu, Sassari, che è una squadra molto omogenea, una squadra con giocatori che è importanti, l'anno scorso hanno fatto molto bene in Eurolega, quindi pronti per un campionato. Ecco, diciamo che è difficile tra queste quattro scegliere una, però io direi alla fine Venezia forse può avere qualcosina in più. Sì, questo è il campionato degli umani alle spalle dell'Armani, che è un po' come nel calcio la Juventus, sembra fare un campionato diverso. O come era nel Challenge Round, nella sfida alla vela, chi doveva sfidare la squadra, c'è un campionato per trovare la squadra che giocasse contro i campioni. Sì, l'Armani sono un po' i neozelandesi della vela, esatto, della Coppa America, esatto. Grazie Attilio. Prego, buona giornata. Grazie ad Attilio Caia. Noi ci fermiamo qui, stanno andando ancora tanti messaggi sul Milan di Berlusconi. Magari ne parliamo ancora domani, dopo il GR delle 14. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, nonché autore di quella meravigliosa copertina sul Milan e su Berlusconi, che sta riscuotendo consensi. Domani, dopo il GR delle 14. Ciao. Pigia rosso, devi pigia stop, sennò il video va avanti 4 ore. Dai!